Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Avevamo fatto un accordo con i ragazzi dell'agriturismo perché ci facessero da guida all'escursione. Partimmo la mattina verso le 11. Tra automobile e percorsa a piedi iniziamo la salita lungo una lingua di lava raffreddata, resto di una precedente eruzione. Questo perché, a detta del ragazzo, quel lato del vulcano era il più tranquillo e poi difficilmente il vulcano cola nuovamente sulle stesse colate. Perché parlare di colate e pericoli se il vulcano era spento? Mi chiamo Edmondo Colella, vivo in provincia di Caserta, ma lavoro a Cassino presso l'università. Sono sposato, ho un figlio. L'unico vero incontro che mi è capitato di avere con un vulcano è stato quando all'incirca 7-8 anni fa sono dovuto atterrare a Palermo invece che a Catania perché l'Etna stava eruttando. Quindi atterrai a Palermo, ci diedero un pullman per arrivare a Catania, però c'era al contempo una manifestazione della Fiat di Termini Imerese che bloccava l'autostrada e quindi ci mesi 12 ore per arrivare dove dovevo arrivare, cioè dalle parti di Siracusa. Questo è stato l'unico vero incontro che io ho avuto con un vulcano. Il racconto però che mi ha mandato Edmondo parla esattamente di quel vulcano lì, cioè dell'Etna, e ne parla un pochettino più da vicino perché lui un incontro con il vulcano ce l'ha avuto. E visto che c'è qualcosa di molto affascinante sempre nell'incontrare quelle cose che sono lì da sempre, ma che quando ti ci avvicini ti rendi conto che sono molto più grandi di te, e sono talmente più grandi di te che forse riequilibri anche tutte le idee che hai rispetto a chi sei tu e a quelli che ci sono intorno. Allora abbiamo deciso di dedicare tutta questa puntata agli incontri col vulcano. Cioè, se alcuni di voi che sono in ascolto hanno avuto la fortuna e la possibilità di avvicinarsi di molto a un vulcano, a un cratere di un vulcano, se ci hanno guardato dentro, se hanno visto i lapilli che partivano e se magari ci sono rimasti anche un po' scottati, 349-238-6666, oppure voi siete qui, @radio24.it. Se avete Facebook invece è facilissimo, Matteo Caccia, io sono qui, che è appunto il profilo Facebook. Io e noi siamo qui oggi in realtà per la prima volta nello studio speculare della radio, quindi ci sembra un po' di essere anche Paolino. Quando ti guardi allo specchio e cerchi di ripetere i movimenti che devi fare, però al contrario, è la stessa roba, perché banalmente Radio 24 ha quattro studi che mandano in onda, oltre ai vari studioli poi per i GR, e ce n'è uno che non viene mai utilizzato, è identico all'altro. Ecco, per voi non fa nessuna differenza, per noi sì, perché abbiamo, invece che via Monterosa alle spalle, ci abbiamo la collinetta di Renzo Piano. Ma tant'è, chi se ne frega. 349-238-6666 L'Etna, e poi non è vero, un'altra volta mi è capitato di avere un incontro col vulcano, sempre a distanza, con il vulcano quello, era islandese, no? Il vulcano che è eruttato 2 anni fa e che ha dirottato tutti i voli e ha bloccato il mondo, l'Europa, sicuramente anche il mondo, anche voli intercontinentali erano stati bloccati. La cosa però che mi interessa di più è sapere se c'è gente come Edmondo che è stata vicino a un vulcano, come Maurizio quest'estate sull'Etna, anche lui. Un viaggio in camper in solitaria dopo una grande delusione sentimentale durata 9 anni. Aspetta però, Maurizio, la delusione sentimentale non è durata 9 anni, 9 anni è durata la storia. La delusione è venuta quest'estate e, aspetta, fammi capire, Maurizio, tu sei andato per recuperare, abbassa un attimo la base, Paulino, cioè tu per riprenderti da una delusione sentimentale sei andato in camper da solo? Sull'Etna poi, ma in camper da solo? Mi viene già un po' di malinconia a pensarti mentre cambi l'acqua al camper o mentre svuoti i bagni chimici da solo. Ehi, dov'è sua moglie? No, ho fatto un viaggio, sa, avevo voglia di rimanere un po' da solo in camper. Comunque Maurizio scrive: sentire lo sfogo del cratere vicino mentre guardavo l'orizzonte mi ha dato una grande forza, con una spinta verso la nuova vita. Bravo Maurizio, quindi questo viaggio in camper in solitaria ha funzionato. Scusami Maurizio, proprio non me la spiego sta roba. Cioè posso capire, ma perché la mia mentalità è ristretta, cioè posso capire un viaggio in moto da solo o un viaggio in treno da solo, ma un viaggio in camper, un viaggio in tenda da solo, ma un viaggio in camper. Marco: il Nicaragua è conosciuto come la terra dei laghi e dei vulcani. Lungo la costa del Pacifico, da nord a sud, sino al centro del paese, è possibile osservare un vulcano in qualsiasi punto. Quell'anno passai vicino al vulcano Masaya o Masaya. Abbiamo camminato fin sul bordo del cratere attivo. Odore di zolfo insopportabile, ci si può fermare soltanto per qualche minuto. 349-238-6666. Il vostro vulcano, mentre questo è il vulcano di Edmondo. Nel 2001 iniziava l'estate. e io portavo Leonardo e Teresa in Sicilia, in provincia di Catania. Lo scopo era far visitare loro un grande vulcano attivo e mangiare qualche cannolo e qualche cioccolata via facendo. Avevamo preso posto in un agriturismo gestito da un insegnante, con la figlia e il fidanzato. Ci trovavamo in una piccola villa dell'Ottocento, immersa in un limoneto. Davanti il mare e alle spalle, ma in realtà ne facevamo già parte, l'Etna. Terra scura e pietre nere che scricchiolavano sotto i passi. Lo scopo della visita era proprio 4 giorni in Sicilia per salire sull'Etna. Lo avevo fatto da ragazzo, in un'estate con amici. Una gita di tutti i vulcani, le Eolie con Vulcano e Stromboli e poi l'Etna, che all'epoca era facile risalire con la macchina. Col tempo però le cose erano cambiate. Quando siamo saliti sull'Etna, Leonardo ci aveva 7-8 anni. L'intenzione è stata la mia di portarlo sul vulcano. Mia moglie, timorosa, non voleva salire, era preoccupata di quello che poi in realtà sarebbe accaduto, cioè che il vulcano potesse eruttare. Leonardo, bambino, più che altro seguiva un po' incuriosito tutta la vicenda, non so quanto poi capisse veramente di quello che stesse accadendo. Avevamo fatto un accordo con i ragazzi dell'agriturismo perché ci facessero da guida per l'escursione. Partimmo la mattina verso le 11. Tra automobile e percorsa a piedi iniziammo la salita lungo una lingua di lava raffreddata, resto di una precedente eruzione. Questo perché, a detta del ragazzo, quel lato del vulcano era più tranquillo e poi difficilmente il vulcano cola nuovamente sulle stesse colate. Ecco, la cosa che mi domandavo però era perché parlare di colate e pericoli se il vulcano era spento. Eravamo su uno spuntone che affacciava proprio in bella vista su questa valle. Facevamo una pausa per bere. Ecco che sentiamo all'improvviso un rumore sordo, profondo e vibrato, tanto da apparire innaturale, che proveniva dalla terra, dall'interno della montagna che avevamo davanti. Pochi istanti dopo un piccolo sbuffo si innalza dal cratere. Bravo, mi sono detto. Hai portato tuo figlio a crepare senza alcun senso. Complimenti. Il ragazzo sbiancò in volto. Io probabilmente anche. Eppure ero eccitato. Chi me lo doveva dire che avrei avuto una fortuna del genere? Scendemmo nelle grotte dove i catanesi decenni prima mettevano a riposare la neve dell'inverno per conservarla come ghiaccio per i loro gelati dell'estate. Risalimmo lungo il bosco di betulle situato più a sud dell'Europa. Visitammo ancora una recente colata che aveva abbattuto un rifugio anni prima. Tutto questo mentre dal vulcano risalivano sempre più forti rumori, tremori e si alzavano alti i fumi. Leonardo era tranquillo, mentre Teresa e i due ragazzi erano sempre più ansiosi. Senza mancare mai di ricordarmi con estrema gentilezza che forse è meglio scendere, non si sa mai. Raggiungemmo il rifugio d'alta quota, che era la nostra meta, e ci trovammo davanti quello che ormai era diventato un tamburo fumante senza sosta. Sbuffi e tremori profondi erano diventati un susseguirsi di larghi fumi, sempre più scuri, a volte misti a detriti, che comparivano tra le folate che montavano una sull'altra, mentre il corpo della montagna tremava sotto i nostri piedi e risuonava, come percorso da una gigantesca mazza. Uno spettacolo. No, anzi, una condizione inimmaginabile, se non è vissuta direttamente. Sicuramente una cosa piena, che ti assorbe irresistibile, per alcuni, orribile e paurosa, per altri. La bellissima cosa è che un evento del genere ti stacca dalla realtà. Cioè, prima quella è una montagna, dopo invece diventa il segnale evidente che quella montagna, la Terra, il pianeta appartengono a un sistema più grande che l'uomo non governa. Questo è estremamente affascinante. Il piccolo guardava incredulo, come se non capisse del tutto, mentre io gli parlavo. La gente che dai dintorni si era raccolta al rifugio iniziò a sfollare. Decisi allora che era ora di andare. Dentro di me ringraziai e salutai il vulcano e prendemmo a scendere. Mi girai e vidi un signore anziano seduta su una di quelle enormi pietre presenti a volte lungo le vecchie vie. Cadevano intanto le ceneri sulla macchina, sui vestiti, sui capelli. I gitanti mi esortavano a rientrare in auto. Ci fermammo ad una fontana e mi rivolsi al vecchio e gli dissi: «È fortunato lei a vivere in mezzo a tutto questo». Lui mi guardò. Forse disse anche qualcosa, ma quello che lessi nel suo volto era più che altro fastidio. Forse avevo esagerato. Don't hold yourself like that. You hurt your knees. Don't drag my love. What I am to you is Dei vulcani hanno tutti delle opinioni differenti. Qualcuno dice che sono una manifestazione della potenza della natura e della nostra piccolezza di fronte alle sue forme. Altri invece dicono che sono un bello spettacolo che attrae turisti e fare affari. Per altri sono il fertilizzante della terra. E per qualcuno, e ammetto che sono quelli che mi stanno un po' più simpatici, sono come dei brufoli che la nostra terra ancora adolescente ogni tanto fa scoppiare, una specie di acne geologica. Io non so bene cosa pensare in proposito, anche perché sono nato e cresciuto in una pianura fatta di sabbia e di erba, che non si muove quasi nemmeno quando c'è il terremoto, a parte un paio di settimane fa. I vulcani li ho visti solo come un turista, li ho visti poco e li ho visti male. Però è chiaro, hanno un fascino tremendo. Io da quando ho visto la prima immagine del Fujiyama mi sono innamorato di quel monte, preciso e perfettamente conico, con un cappello bianco di neve. Mi sembrava rassicurante e bello, niente di più. In realtà i vulcani sono il luogo dove il dentro della terra incontra il fuori della terra. Sono un po' come la bocca per il corpo umano. Sono un luogo di confine tra la superficie e ciò che rimane nascosto, sotto, caldo, che è invivibile. Sono porte da cui si possono guardare le viscere del pianeta. In fondo è da un vulcano, no, che Verne si è immaginato di entrare fino al centro della Terra. Ma io non sono tanto affascinato da ciò che c'è sotto e non si vede. A me piacciono le cose che stanno sopra, davanti agli occhi, quelle che noi interpretiamo, ognuno a modo suo. Ho fatto una ricerca dopo aver letto il racconto di Edmondo e ho scoperto che un vulcano è una struttura geologica molto complessa, che si genera all'interno della crosta terrestre per la risalita di questa sostanza fusa che poi è il magma, che si forma al di sotto o all'interno della crosta terrestre. Più comunemente con il termine vulcano però ci si riferisce solo alla parte esterna, visibile, dell'apparato vulcanico, ossia proprio al rilievo, no? Che è più o meno conico, alla montagna, che è formato dall'accumulo di tutti quei materiali liquidi, solidi o gassosi che sono stati emessi dai crateri durante le varie fasi eruttive. Sulla superficie terrestre il 90% dei vulcani sono sottomarini, mentre circa 1500 sono quelli che sono ancora attivi sulla terra emerse. 1500 sono tanti, eh? E l'Etna, di cui parla Edmondo, è uno di quelli. Mi ha fatto impazzire quando sono atterrato a Catania anni fa, l'ho anche visto da vicino più o meno, perché il pilota era in vena di prodezze, no? Un po' come fanno i piloti quando si annoiano, perché pensano di fare sempre le stesse strade, no? E quindi vogliono cambiare un po'. Tra l'altro sta cosa dei piloti è strana, perché se si annoiano loro cosa dovrebbero dire quelli che guidano la metropolitana? Vabbè, comunque, l'Etna è stato splendido dal cielo, ma anche dalla città. Da qualsiasi strada lo incontri con lo sguardo, l'Etna. Sembrava stesse lì ad osservare, dovunque mi trovassi. E stare a Catania per me è stato semplicemente stare ai bordi del vulcano. Non ho avuto abbastanza tempo per capire che nei secoli passati, con le sue eruzioni, aveva spazzato via case e vite parecchie volte. E poi c'è la via Etnea, che è la principale via della città, che è messa in modo da accogliere la lava, se dovesse venire ancora. Eppure la gente continua a provare una specie di amore e odio per quell'enorme compagno di giochi che speri che non si svegli mai, se non per farsi un sigaro. A me piace pensare agli oggetti inanimati come degli esseri viventi. Era la stessa cosa che facevano anche gli antichi. E allora per me, se esiste, il dio vulcano esiste ancora ed è in Sicilia. E ogni tanto dice qualcosa che non capiamo, ma non è cattivo. E spero presto di tornare a trovarlo. I had none lost, but I lost all of them. And I've been searching in the night, and I've been searching in the rain. I tried to find them, but they disappeared. They walked away, they dressed in black, they left my side. And all I say is that I wasted time when I look for them. For now I know that things gone past are never to be found again. No, never, never again. I had nine lives, but lost all of them. Ended. Visto che abbiamo aperto un profilo Twitter per il programma che voi siete qui, lì oltre a scriverci alcune parti del racconto, alcune delle cose che diciamo, mettiamo anche tutti i brani che mandiamo in onda e che sceglie Tiziano Bonini. Quindi se vi capita l'hashtag è voi siete qui, o altrimenti seguite il profilo proprio del programma che è voi siete qui. Allora mi scrivono a proposito di vulcani, vedi il problema di cambiare studio, è che questo schermo è troppo lontano e non vedo niente. Aspetta che avvicino il microfono. White Island, New Zealand, è un'esperienza indimenticabile. Qualche anno fa ho passato una notte sul vulcano Cartala o Cartala nelle Gran Comore. Un'emozione indescrivibile. Niente, ne conoscessi una di queste, Cartala, Gran Comore. Vabbè, saranno le isole Comore. A Gran Comore sarà l'isola più grande delle isole Comore. Sono stato su un cratere dell'Etna anni fa. Aspettavo una bella sensazione, ma il merchandise ha appiattito tutto. Come essere all'Ipercop. E poi Massimo, io abito ai piedi del vulcano, ti assicuro che la sua grandezza ti dà una grande energia. È esattamente la stessa cosa che ha scritto Edmondo a proposito dell'energia e della paura che ti trasmette. Pronto Edmondo? Sono qui. Ciao, come stai? Bene, tu? Innanzitutto sei il primo Edmondo che io conosca, a parte un personaggio di Ray Lear, devo dire. Sì, vabbè, il mio nome è comunque un po', come dire, poco consueto. Tu conosci qualche altro Edmondo? Sì, due. Vabbè, però per forza, perché ti saltano all'occhio, probabilmente anche io li ho incontrati. È un po' come quando compri una macchina e poi ti sembra di vederle tutte in giro, vabbè. Prima invece non ne vedevi neanche una. Senti Edmondo, ma tu quanti anni hai? Perché dalla foto sembri un ragazzino... Veramente, ti ringrazio, io ho 48 anni, perfetto. Allora, perché poi ho fatto due calcoli. Nel 2001, quando eri sull'Etna, avevi un figlio di 7 anni. Mi sembrava un po' eccessivo. Cosa fai all'università invece? Mi interesso della comunicazione dell'Ateneo, ma preferisco parlare della questione del vulcano, ti dispiace? Ma figurati, no? È che io mi amo farmi i fatti degli altri, banalmente. Quindi volevo sapere qualcosa dell'università, ma va bene così, insomma, comunicazione. Dimmi invece, ricordami di quel momento, cioè tu sei l'unico che se lo ricorda o tipo Leonardo, tuo figlio, se lo ricorda bene? No, ce lo ricordiamo tutti e tre. In realtà io, come ti scrivevo nella lettera, c'ero stato da ragazzo, sì, con due miei amici, ed è stata un'esperienza bellissima. Leonardo ormai iniziava a capire cosa succedeva intorno e quindi ho pensato di fargli rivivere l'esperienza, però non mi aspettavo che ci sarebbe stata poi dopo anche l'eruzione del vulcano. Ma scusami, ma c'è stato un reale pericolo oppure no? No, in realtà no, perché noi comunque non stavamo in prossimità dell'eruzione, stavamo comunque sul vulcano, però non eravamo proprio sulla cima del vulcano, cosa che avevo fatto invece anni prima con i miei amici. Ma anche perché, scusami, ma mi sbaglio, l'Etna ha più di una bocca, no? Neanche una da cui la lava praticamente scende e si infila in una valle che è disabitata, che è come se fosse un raccoglitore di lava, o sto dicendo una stupidaggine? Esattamente. E voi eravate vicino a quale, scusami? Noi eravamo vicino alla Valle del Bove. Ah, ok. La valle di cui tu parli. Che è quella valle lì, ok, perfetto. E scusami, la sensazione è, cioè, l'odore, te lo chiedo perché più tardi voglio leggere un pezzo che è tratto addirittura da una lettera di Plinio il Giovane, che sì, parlava dello zio Plinio il Vecchio, che di fatto è stato il primo vulcanologo, no? E che è morto per le esalazioni sulfure, credo, per i gas del vulcano. Cioè, che tipo di odore si sente vicino a un vulcano che erutta? Allora, guarda, io ti dico, sono stato anche proprio a Vulcano. Quindi sull'isola di Vulcano. Sì, sì. E lì l'odore dello zolfo è persistente, è proprio bellissimo. Sull'Etna in realtà si sentiva l'odore dello zolfo, però i rumori erano molto di più. Certo, perché immagino che senta, oltre al rumore, senta proprio la terra che trema. Esattamente. E questa è la cosa proprio bella, perché in effetti ti rendi conto che poi il pianeta è vivo, perché un rumore così forte... Non l'hai mai sentito prima. Certo, non lo senti da nessuna parte, lo senti solo là. Senti, e la temperatura? Vabbè, era estate, faceva già caldo di suo, insomma, era appena iniziata. Ah, ok. Quindi la sera iniziamo a vedere le prime colate rosse, però noi eravamo saliti proprio nel momento in cui iniziava, quindi c'erano degli sbuffi. Non era così determinante, insomma, la temperatura. Esattamente. Senti Edmondo, io ti ringrazio e ti devo salutare perché sono già un po' in ritardo, però grazie. Comunque ancora siete bravi. Va bene, anche tu non scherzi per niente. Ciao e buona giornata Edmondo, grazie. Ciao, grazie. L'ultimo messaggio sul Vesuvio da Genova con la 127 con l'impianto a metano. Io e mia moglie, anno 1998. Voi siete qui. Ecco, vi descrivo per quanto posso la foto che mi ha mandato Edmondo e che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui, là dove c'è la mappa di questo programma che sta percorrendo tutta l'Italia. Edmondo si è fatto una foto molto molto da vicino e, diciamo, le foto molto molto da vicino non rendono mai merito a nessuno. Però Edmondo ha una faccia simpatica, quantomeno perché se l'è fatta di proposito, così va da vicino questa foto. Si vede un pezzo del naso, si vede un occhio, si vede un pezzo della bocca, ma pochissimo. Al pizzo, alla barba un po' incolta, i capelli ricci e ha proprio la faccia di uno che lavora all'università ma non ha per niente voglia di parlarne.

ricordatelo che era dai tempi del liceo, da quando avevate tradotto l'ultima versione, che non sentivate parlare di Plinio il Giovane, e ve la sentite alle 4:30 in radio, seguita direttamente dai Radiohead. 349-238-6666, ringrazio Anna Maria che mi scrive: Plinio il Vecchio morì non intossicato ma soffocato dalle ceneri del vulcano. Guarda Anna Maria, io non ho con me il referto dell'autopsia, però io mi fido ciecamente di te, perché sicuramente ne sai di più. E intanto, proprio della sciara, le sciarade dovrebbero essere, mi scrivono, beh, però se me lo scrivi ne sei sicuro, altrimenti, dovrebbero essere le colate che si ingrottano. Quindi le colate che escono e poi finiscono in altre grotte, mi sembra di capire. 349-238-6666, vi ricordo che esiste un profilo Twitter sul quale scriviamo alcune delle cose che raccontiamo in onda e tutti i brani, che però trovate anche sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui. Esiste un modo per riascoltare queste puntate, se magari ve ne siete perse un pezzo, o se ve le siete perse tutte, o se vi sono talmente piaciute da volerle ascoltare, sulla pagina podcast di Radio 24 del sito, alla voce di Voi Siete Qui, o altre vi abbonate gratuitamente ad iTunes, a Voi Siete Qui, e lì le ultime 5 puntate ve le scarica automaticamente. Ringrazio anche l'orgoglio camperista di chi mi scrive: Matteo, un vero camperista viaggia da solo, come un motociclista, semplicemente con un pochettino più di comodità. Grazie a Stefano D'Andrea, grazie a Paolino Corleoni, a Margherita Ina e a Tiziano Bonini. La storia di oggi era la storia di Edmondo e parlava di vulcani, quella di domani la storia di Viola e parla di coppie. Da bambina passavo le ore a fantasticare sul principe azzurro, con cui sarei volata via, e mi commuovevo per ogni piccola cosa. Oggi invece ho l'umorismo di un caterpillar e ho la testa così tanto per terra che mi dicono che non sono capace di sognare. Sono felicemente single e al solo pensiero di una storia d'amore mi viene l'orticaria.